preparando la terra, così domani c'è la piazza. Mi si è troncato lo zucchero, lasciato un caso in mezzo, una terra di una sezione sottile, e meno male c'erano i tiranti, e è rimasto attaccato lì e lo tiro si è appoggiato su un albero, quindi la penna non si è rotta. E allora l'ho ripiazzata. Beh, l'indomani me ne ha parato uno di poco, mi si è truncata la canna alla pesca, budù, tutta a terra. Gappa gappa, e beh, che succede? Oh, io ce l'ho una canna alla pesca, l'importante è che alla fine del mese ricarichi mettermi la linea per andare in internet, però mi hanno detto che loro mi dovranno dare pure il telefono. Come la storia? Io ho chiesto a uno della CIP, della Telecom, se si poteva mettere la linea in modo che io non avessi nessuna spesa. Cioè, quanto è al mese per andare in internet? 20 euro, 30 euro. Io chiedo i 30 euro al mese, boh, basta, non voglio sapere niente. È giusto per andare in internet. Capo. E io lascio perdere qua, perché tutti e due che possono andare in internet. Però quello che faccio l'abbonamento lo faccio con Motorola, perché la verità serve più a mio figlio, capito? Che sta facendo delle ricerche e a scuola non è sempre che ci riesce, hai capito? Entrare. tutti. Eia, eia, con i pollici scriveva per farmi, se lo metteva nelle due mani, la conduita. Tranquillo, mi viste di fumare, non scuola gli viene magari voglia di mangiarsi un panino, allora in ricreazione va, se lo fa, se lo mangia, senza nessun problema. Però non è né tentazione né nulla, è un bel tranquillo. Vince il concorso, diciamo così, non è detto che gli piaccia fare quella vita, è quello il discorso. Capo, no, ma Il mare gli piace, le cose gli piace, così che dovrebbe essere tutto positivo, là. Cioè, da quel lato lì che è già sulla buona strada. Però io sto dicendo che lui, come finisce questi 3 anni, ne ha 15, finisce i 3 anni, ne ha 18. E sarà la domanda per entrare lì e continuare a studiare, però sempre su quel settore, capito? Dopodiché, se gli va a fare il concorso come professionista, a dire, ecco, io mi ho pigliato il diploma, non so, di telegrafista, di motorista, qualunque cosa sia, fa il concorso, se gli va bene, almeno c'ha un mestiere e c'ha anche un posto di lavoro tranquillo. Ma voi ci vedo domani, non lo so. che lui purtroppo non ce l'ha voluta fino in fondo. Infatti Babbo con la pensione, ti sto dicendo, si è goduto Babbo, capito lei che cos'è il discorso? Più quando un tempo si deve applicare a queste cose e almeno per la pagata sicura, capito? E poi io sono detto vigliosi a Lugabu di pure Luva, è una cosa buona, Mario. Già, infatti io glielo dico sempre, ma non è che glielo dico perché glielo voglio imporre, sia ben chiaro, è libero di scegliere quello che vuole, però glielo dico perché non se ne deve dimenticare che sulla terra oggi ci sei, domani non lo sai, così che lui deve fare affidamento solo su di lui. Compreso, vai. Ti sei sentito a fare tu. Che appena passato dall'altro dalla settimana scorsa, mi ha tolto la presa e l'ho messo nel sugo. Ah no, e quello là è stato male, vuoi che si raggiuni? Deve andare a lavorare, prende il freddo, questo, bisogna uscire, no, io esco per lavorare, che se non arrivo al piano non mi mangio, mi sa poco ma è sicuro, ma non tanto ma almeno per me vi giuro. Gli stavo raccontando al Natalino quanto si è fatto alto Davide, che è robusto, che quasi quasi deve mangiare maccheroni al capo a Natalino. Quello che gli stavo dicendo io è che lui deve

Ma lo conosco, vedete? Sì, stava sto parlando? Senti, domani ci vieni? Abbiamo città mercato a comprare la chiesa per poter andare lì sempre. Thank you. il barbiere che vi saluta. Buonasera a tutti, riprendi Mario. Scusate un attimo, riprendo io per salutarvi che mi hanno telefonato e devo uscire. Ci sentiamo alle prossime. Ciao, va, Natalia Munica, sera. Comunque saluto a tutti, buonasera. Avanti, Mario. Ciao Natalia, buon divertimento, se stai riuscendo a divertirti. E tutte le prossime. Ciao, io Maria, ben ritratto e ben sentito. Niente, là, in compagnia mia, di Maslare, di Luca Manicomio, poi, vabbè, già mi è chiuso, di Sedine. E chi è il suo Luca Manicomio? Ha fatto presenza, però. Lasciamo contare, sì, la voce bella, già si calma anche lui. Ehi, ti faccio scattare. Di picche, bobo. Avanti, avanti, Luca, buonasera anche a te. Ah, ciao Giovanni, salutoni, come hanno ascoltato, Gianni. muovi uno, li muovi due, stringi bene, e ho ben fatto. Perché per il telefono i fondi segnale riesco a sfruttarli, ma riuscirà. Ciao Roberto, cioè, forse che mi ascolti, dai, perché sono solo facendo? Avere 8 metri di palo, 2 non le corte perché è attaccata al muro e ce ne sono 6 metri sopra la cabina dell'ascensore e più la tenda e già va bene. Sì, infatti io diciamo che la voglio sfumare perché io quando l'ho piazzata la Benemiglio, ma c'è stata, sì, però non ho preso preoccupazione perché dovevo riscenderla per portarla anche da nuovo, quindi l'ho piazzata la Benemiglio, non dico male, poi vabbè, non dico come l'ho entrata con l'antenna del palo perché è perfetto. Sono molto ignorante in materia e non è che sono un esperto né di antenne né di nulla, però io stavo dicendo a Luca che se non gli entra dentro perché è la stessa misura, si buscava una filiera, ne mangiava quel tanto del filetto e poi l'avrebbe fatta entrare, sarebbe entrato ugualmente. Ma loro fanno tanti cosi e boh, ognuno ragiona con la sua testa e va bene anche così. No, guarda, è più semplice come stavo dicendo prima, perché lui ha già il palo e non ha fatto l'antenna. Siccome quello che ho fatto io è leggermente più largo all'interno, cosa succede? Che il palo che ha Luca entra in quello bravo che gli ho dato io, quindi per bloccare quello bravo lì, anziché entrare a salvarlo, mi fai due buchi passanti e lo buchi così, e l'antenna un po' più alta anche, ma vabbè, per lui piazzare un'antenna non è che ci voglia la laurea, non è che per carità. Gappa, ma molti la fanno difficile, molti la fanno semplice. Io per esempio con i tubi mi arrangio in tanti modi, non è che perché si lavora in mezzo ai tubi così che li conosco, così che bisogna vedere adesso, io non so che palo c'abbia lui, però lo dovrei vedere per potervi dare un consiglio, altrimenti parli di solamente a Valvera, e boh. Scusate un attimino che vado a salutare, dai, ce la mettiamo subito, che se no lo stanno andando via. Ecco, comodo Tino. Mario, io domani mattina ci devo salire su te. Se vuoi salire, se non te lo vedo, metto vicino alle scuole. Se vuoi alza, non so chi non anch'io. Tanto penso che verso le 10 saliamo su te. Andiamo, ci prendiamo un caffè, tanto deve venire pure Claudio. Siamo lì, adesso qua a casa, andiamo a Cruveri. Gappa, non c'è nessun problema. No, intanto mi dovrò avvicinare a casa di Franco, che gli porto il trapano con quelle due, 3-4 punte, sia per l'alluminio sia per il muro. Poi lui deciderà quello che vuole fare. Io sul tetto suo non ci salgo perché se ci sono le tegole, sia qui le va il mio risotto. E lì ci vuole che fare leggera, per esempio io sono leggero e salgo io dalla mano. Il casino è un'antenna, sembra facile ma è un casino nero. Boh, vediamo, poi sempre se il tempo è buono domani, se no si va tenuta. No, perché io poi domani mattina, cioè io passo lì, posso passare anche da te, non ne ho problemi. Lo guardo e ti posso dire, potrei dire la mia, poi ognuno fa come vuole. Luca, non è che io devo imporre o dire qualcosa, quindi io posso dire la mia e me ne vado. Poi vado da Franco, gli do il trapano con le punte e si arrangia. Io non lo posso aiutare perché so che lì è un tetto fatto a tegole e se salgo io non gli rompergli le tegole ma se vale il mio risotto. Vabbè, bisogna sapere camminare anche. Io anche sapessi camminare, poi ripeto, ci vuole un peso leggero, ma non fa salire in tanto. quadro, non fa, para, non questa, poi ci blocca, non ce n'è mai alta. Tagliarlo quel parole. L'unica è fare così, diversamente non si può fare. Ormai si è abbassato un pochino, sono vissuto, come si ricorda, sono vissuto. questo qua. Ma dai, un lavoro sicuramente, gamma gamma. Comunque lì è... diciamo che è già spari da quella zona, No, ho detto che da quella zona già spari. Ma lui no, ma già spera, lui non sembra che non va. Pensa che Mario già non sembra che lo facciamo io. Lei lo sta arrivando sempre con noi, quello che dici, non è che è una nuova recessione, qua se ho ricevuto una recessione di un'antenna buona, minimo, non vorrei esagerare, ma Mario minimo mi potrebbe arrivare almeno 9,40 qua. Di brutto pure. E io lì il mio, tu qua 9,20, buoni buoni. 9,20, 9,15, 9,20, io ho messo ormai male 9,10 da. Tipo di vento e quindi avevo fermato, però Mario, poi c'era il numero è sparito, e poi c'era Gio Maria, ma c'era... Vediamo. secondo me è scudo tutto un sommaro, io so, e più questo a 2,5 metri, e poi vediamo cosa ne esce. Un po' di anni fa, ma è stato lo stesso. Allora, che putti che secondo me il milione le piazzate facendo questo al taglio. Ieri è stato, non so se te lo ricordi, che mi sembra un po' mezzo influenzato, perché c'aveva una modulazione un pochettino così. Poi adesso non lo so se è l'orecchio mio o che cosa. Ti sento, amore mio, ti sento.

posto, sta andando, sì. Se vuoi rientrare siamo qua, noi là. Una carica, anche al sud è pronto, ma mangiamo un piatto di pasta, ci vuole. A me la quindi vuole mangiare, solo che rimango sempre secco. Ci vuoi fare, la lasciamolo fare, c'è un fatteggio. Comunque, per quando pensi di darmelo, pompo. Thank you. passando, subito me, subito, subito. Stai costringendo a segnare i punti, a staccare la, la, la, sicuri. Uno dovrebbe essere la ripetizione e l'altro dovrebbe essere il letto, che in certi casi c'è e in certi casi no. Oh. pochino. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, ola, ola, ola, ola. Non c'è solo un 24. Baracchino, baracchino, baracchino, baracchino. Che è quello lì? che è chiesa da poco. Si chiamava quello americano. Di quello, di quello, sì, di quello. No, ma poi il resto delle altre cose che ho, male. Lascia stare. Con la P50. aspetto per carrozzinare. Fatone! Sacco con la bottiglia di chignotto! Scale, nel 2002! No, no, no, guarda, mi fatto che è venuto la bottiglia di spalla, cioè mi sembra che era 64, guarda, l'ha saggiato, dice che sembrava, pensando che ho benzina, e già lampata. Ciao, ciao. Ciao, va, buon divertimento. giorno. Ciao, ciao, alle prossime. Riprendi Roberto. Ciao Marco, alle prossime. Vai. Ciao Marco, ciao. Quando passo a prendere Lola. No, Lola, no. Lola. Passo c'è per la tua, ti chiamo. Lola, Lola. Thank you. va benissimo, con 40 euro non compri nulla, Ma però guarda quella fotografia, se la fiamma anche, tu dici, guarda, se due di Trento, lui dice che ha funzionato perfettamente. Il tubo è nato, tu mi hai fatto un altro tubo, dove c'è il bullone per bloccarlo. Non lo sto scendendo lì, boh. Vabbè, non voglio fare cagate, è un blu. Se no avrei fatto uno spezzone di tubo, la una centina, tiravi il forazzo, i dadi. Due da una parte, due dall'altra. Adesso vediamo quello che sto macinando io, l'italiano è un pezzo del mio. Tanto 1,70 Ora si può che lo metta tutto. Faccio un foro passante, metto due bulloni lunghi, come le rondelle, stringo bene, già tiene lo stesso. Perché non la voglio solo mai più intanto, ma se devo, ci devo lavorare, ma mi dà problemi, come faccio? La gioco bene. No, io ho già messo le staffe in cementaste. Adesso viene, se Claudio, ormai non so se viene, fatto che scende a vedere un po' la situazione. Niente, poi si vedrà cosa fare. Sicuramente domani non ce la faccio a farlo, perché devo dare una mano a Franco per piazzarsi la sua. Le staffe diciamo che già sono forti. Meglio di prima già è all'80%, non al 100%, all'80%. Meglio di prima già è. Poi con i tiranti penso che già rega bene, dai. Non c'è problema, infatti ne devo aggiungere un altro, devo aggiungere un altro tirante per riaddrizzarla un po'. E boh, e la mura su muri in chibi, comunque già ci sto un lavoro discreto, dai, non perfetto, perfetto, ma già va bene. Qualcuno l'ha visto, dato che già va bene. Andava, dai, andava. Ripeta, Robè, lo senti a Luca? Luca, io lo sento molto basso, lui mi sente a me. Ho sentito Luca, l'altro Luca, come ti arriva? Come ti arriva? Hai capito, Robe? Sì, ho sentito molto, lo sento molto basso in radio. Sento al 3 radio 3 adesso. Lui sente al 3 però radio ha trovato comprensibile. Gappa, gappa, lo so. Siete te due in condizioni pessime, diciamo. Vabbè, Robe, adesso come ti faccio l'antenna lo riceverai meglio a lui. Vabbè, molta più ricezione e non è problema di ascoltare. Quanto la che hai è così, ti fai sentire, ma la ricezione è che sia una delle migliori, Papa, non lo sta modulando Luca lui? Riva Delta. Ma sta andando da piccolo anche lui allora? 90 milioni di macchina c'ha. Dove lo fa già? Sul terrazzo. Perché 90 milioni di macchina già gli arriva a bomba. quadrata, tipo ombrello, ombrello quadrato, e un'antenna, mi fa fare 9 decibel di rendimento. No, ho detto che sui miei c'è un'antenna a filaggi, che sembra uno sedicuglio, proprio invisibile con dei tiranti sottili sottili, e che ha 9 decibel di guadagno. Se si supera 27, se si fa sembra invisibile, invece c'è il lì, e in forza antenna invisibile, che è arrivato da lì. C'è Mario, Mario ci sei ancora? Luca, Luca di Motorosello è entrato. Senta, antenna invisibile ai viaggi. No, no, non due elementi, no, è un'antenna, sembra un orso di studio, sarà solo, ci sono dei fili attiranti, Mi sembra che sia a pagina 1 o 2. L'ho trovata? C'è la fotografia, sembra un ombrello, c'è la forma di un ombrellone di quelli quadrati da mare. Se c'è un apparato in scalotta, l'ho visto quell'apparato con l'Ox 4000 Echo, 51 euro, pago tra pochi minuti. Conosci il con l'Ox 4000 Echo? Scusi, con l'Ox 4000 Echo, che è in scalotta, pochi minuti. Aspetta, vabbè. Luca, chiuso leggermente. Ah, Antonello, non lo senti Rob? Sì, abbastanza, dai, no. Meglio di fisso, però non è forte se gara basta. Tu buon poco, non lo senti a Roberto? Thank you. Ma questo fa vedere, è una cosa per verificare. Perché All right. Thank you. di cui è, però già ci si deve fare qualcosa. L'altro invece non andava meglio. Allora, ci ci si riascolta, dai, già.